Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Hamburger, dici? La colonna portante di ogni colazione vitaminica. Parliamo di 1200, che è successo un'altra però, polemica. Però scusi, lei ha ragione, però siccome più o meno lo stipendio medio in italiano è 1300 euro. Siamo i neolaureati italiani, no. Sono gli ultimi in Europa. Stiamo per parlando di quella cifra. La cosa gravissima è che un punto d'arrivo, certo, per un laureato, ma io la cosa che non riesco a capire è questo, ma perché la gente si accontenta? Io col fisco ho un ottimo rapporto, ho un contenzioso per una barca che stiamo da 5 anni, che stiamo, per cui c'è stata una prima sentenza, ci sono altre 2 sentenze, l'arbitro fischia 3 volte, per adesso ha fischiato 1 volta sola. L'immaginario di Trump, beh, a me sono venute insieme un po', io ho tirato 2 bombette. Ho seguito la campagna presidenziale. Ripeto, ha fatto bene o ha fatto male? Scusi, ha fatto bene a tirare. Sì. Se io dovessi dire qual è il mio sogno in Italia, avere un partito dove c'è dentro Berlusconi e c'è dentro Matteo Renzi. Vabbè, è tornato Briatore venerdì al tabloid a parlare e a dare i suoi mantra elargiti sugli stipendi dei giovani, le bombette di Trump. E poi il sogno di Briatore, che è il sogno anche di molti italiani, Berlusconi e Renzi insieme, il patto del Nazareno ricostituito a tabloid da Briatore! Eccoli a Night Tabloid. E alè, e alè. Buona Pasqua, eh? Ah no, è finita. Allora, tutti in piedi anche sul divano. Arriva il cross. Tocca a Marco, poi Zapata. La palla è entrata. È entrata, signori. È entrata, signori. Se ho visto bene nel delirio finale. Delirio, giusto. Delirio. È successa una cosa incredibile. Incredibile. Signori, a Forlì ci sono 8 gradi, come ci fa sapere il nostro ascoltatore Stefano. Mentre a Fregona, in provincia di Treviso, 8 gradi e tempo incerto. Sulle colline pescaresi, Alessia, che dice che le sono mancato tantissimo. Anche te, Alessia, mi sei mancato. 9 gradi. Salerno, piove, 14 gradi, ragazzi. Le temperature sono scese, eh? Questo è ufficiale. È così. Siamo tornati a Perugia, 13 gradi, Luca. A Savona, 13 gradi in questo momento. Mentre là, dall'altra parte del vetro, come si diceva nelle radio anni 70, Peter Biscapè se la ride, Lorenzo Nespoli si sta dissanguando. E puoi dissanguarti lontano dal mixer, grazie, che così non ci rovini la diretta. Se devi crepare, fallo fuori dallo studio, esci pure dalla porta, grazie, che qua c'è una diretta da portare avanti, caro Lorenzo. 6 gradi a Molinella. Lorenzo Molinella, vedi un po'. 6 gradi a Pandino, questa la so. 6 gradi a Bonate sotto Alex. Ragazzi, vedete che fa freschino. Molinella. A Siena 7 gradi, lo sapevi? Molinella. Bologna. A Voghera 7 gradi, grazie a Silvia. Cos'è questo? Lurate. Piero, 5 gradi, non si capisce niente, vabbè. 7 gradi a Novi Ligure, 7 gradi alla temperatura giusta. Allora, io voglio salutare il quasi presidente, il presidente del Codacons, il quasi omonimo, il quasi omonimo, ma presidente, Carlo Rienzi, avvocato, buongiorno, sì. Ciao, come stai? Buongiorno, 2 gradi a Parigi, 10 gradi a Tarquinia, insomma, vi do informazioni qui da... Ho capito, ma dove stai? Da mezzo punto. Ma dove stai? Cioè, non so. Tarquinia, non a Parigi. Sei a Parigi? No. Dove stai? A Tarquinia, 7 gradi a Tarquinia, va bene. Siamo con Carlo Rienzi e siamo anche con la nostra... Grande Maria, sono Anacleto, ho sì. Chiuso il closing ieri, vado in pensione dal 1 giugno 2017, sicché colgo l'occasione per invitarti alla mia festa venerdì 28 in un noto locale della Lucchesia. Sì. Ti vengo a prendere, sei a mie spese il sabato, venerdì e sabato, però sì. Sabato ti levi da coglioni. Ciao. Così non va! Allora, vorrei poter portare un'accompagnatrice a questa festa. Alla festa, ma... Tu pensa, Veronica, come ci divertiamo alla festa! La cosa più bella del mondo, prego! Alla festa di Anacleto nella Lucchesia che se ne va in pensione. Ma pensa! Comunichiamo ad Anacleto ufficialmente che noi vogliamo andare insieme. Sì, ma certo, ci presentiamo. Ci presentiamo. Anch'io. Ecco, mi sembra giusto. Subito Rienzi. Vabbè, Rienzi, dai, va bene. Secondo me gradisce più la presenza di Rienzi che la mia, te lo dico. Sì, devo dire che Anacleto, lo so, gli stai un po' sui coglioni. Stai bene, la grande simpatia che ha per me. Ma tutti gli stanno un po' sui, anch'io gli sto sui coglioni e un po' tutti quanti, insomma. Comunque sì. C'è Veronica Gentili, signori. Ah, ecco, chiaro. Ah, ecco, no, non ti avevo annunciato. Sciocchina cinese, come ci si sente? E uno, e due. No, cinese anche, eh? Ah, ecco, come si dirà sciocchina in cinese, in mandarino? Non lo so. Dobbiamo scoprirlo, perché ormai hai cambiato razza. Vabbè, e tu Zapata, hai presente Zapata? Sì, ce l'ho in pugno Zapata. Era quel leader che guidò la rivoluzione cilena, sì, proprio Zapata. Zapata è un altro, vabbè, niente. Dai, allora, apriamo il Parlamento. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente! Oh, signori, allora, oggi i giornali parlano soprattutto della Turchia. Ma io voglio partire da un'altra cosa che è avvenuta ieri. Allora, questo mitico scioperone all'outlet di Serravalle, no? Mitico scioperone. Sapete quanti negozi sono rimasti chiusi? Su 250 negozi, 4 negozi chiusi. Ma Di Maio ha detto che lavorare la domenica, le liberalizzazioni ci portano al disastro. Insomma, Di Maio ha cavalcato questa battaglia dei vescovi, dei sindacati, quelli proprio di sinistra, questa battaglia sul fatto che lavorare la domenica è sbagliato, lavorare la domenica distrugge le famiglie. Caro Rienzi, eccoci. Allora. Io penso che il lavoro... domenicale debba essere volontario. Volontario, Beh, cioè, certo. Chi vuole lavorare, o perché ha bisogno, o perché vuole lavorare, o perché non ha niente da fare, preferisce lavorare, deve lavorare. Ma non si possa obbligare, perché un giorno a settimana il riposo è necessario. Ma ah, capito, avrà il riposo pagato, ma uno che lavora la domenica avrà il riposo il mercoledì, il sabato. Ho capito, però se vuole cambiare il giorno, anche lì siamo sulla volontarietà. Perché la domenica è il giorno in cui si può andare in giro, fare tante cose che non si fanno gli altri giorni, non c'è l'assillo del traffico, quindi è una scelta che non è tanto religiosa secondo me, ma è una scelta di tradizione, di costume, di cultura. Ma che facciamo però, Rienzi? Che facciamo? Cioè, i ristoranti, i camerieri, quelli che lavorano a parte nei pubblici servizi, gli aeroporti. Cioè ci sono i camerieri che vogliono lavorare, se si riesce si tiene aperto e si paga anche bene, ovviamente, straordinario. Ma che ne so, io ho un ristorante, ho 4 dipendenti. Che fanno? Sì. Se nessuno mi dice io la domenica non voglio lavorare, che faccio? Vuol dire che non sei un ristorante in grado di lavorare la domenica. Sei un ristorante molto piccolo e ti devi arrangiare e lavorare gli altri giorni. Cioè, non si può costringere il lavoratore a lavorare sempre, anche nei giorni in cui da millenni praticamente, ma non ripeto per motivi religiosi, non per quello, ma perché tutta la società è organizzata sul riposo domenicale e quindi tutto quello che si può fare, si può godere e fruire la domenica, non si può godere e fruire gli altri giorni. Io credo che comunque non è un problema, perché sicuramente si trova chi vuole lavorare la domenica tra i lavoratori, quindi mi sembra assurdo imporlo, questa è la mia opinione. Vabbè, mi sembra un po' una cosa da decrescita felice da queste cose, diciamo che non è una posizione, ripeto, religiosa, ma è una posizione di rispetto dei diritti consolidati, che è anche quello importante. Non lo so, io credo che neanche la comunistona Veronica Gentili sarebbe spinta tanto, non lo so. Evidentemente lei si può permettere di non lavorare quando le pare. Non lo so, Veronica, questo che è dici? Evidente, proprio come status, è scritto nel DNA, nel patrimonio genetico. Che mi dici, cioè, Veronica? Manco te, secondo me. Insomma, nel senso che io non, l'idea che poi non ci sia più ormai una regola è un po' diventata una sorta di asticella al rialzo, per cui è vero quello che dite, nel senso che uno può decidere in maniera volontaria, ci sono ancora lavori in cui chi decide di lavorare per esempio nelle festività, come è stato in questo ponte, prende qualcosa in più, quindi ci sono a volte paghe diverse, però in assoluto l'idea che ormai sia molto difficile dire di no, perché poi il discorso è questo, è sempre questa la faccenda, se ci sono altre 10 persone che dicono di sì e tu sei l'unico ad avere dei problemi, è evidente che tu sei penalizzato. Allora, siccome già andiamo nella direzione di un mondo sempre più individualista, sempre più alienato, in cui avere un minimo di relazioni sociali che esulino dai social network è complicato, mettici anche che io non c'ho più un giorno libero che corrisponda a quello degli altri esseri umani in cui poter fare delle cose insieme. Oh, vuoi salvare le relazioni sociali? Che bello! Evidentemente non quelle con te, perché credo che comunque sarebbe impossibile. Su questo è chiaro. Però rispetto alle altre, con individui che non siano altrettanto spiacevoli, sciocchina, poi si può fare qualche cosa e cercare di collaborare, insomma, mannaggia. Sì, credo. Detto questo, penso che il mondo vada avanti e non lo possiamo fermare noi non facendo lavorare la domenica. Ma questa storia che il mondo va avanti, poi possiamo trovarci veramente con le persone che non hanno più un secondo per poter avere un'esistenza a prescindere da quello che Ma ho capito, ma che vuol dire? Ma cioè, tu vuoi salvare le relazioni sociali con le persone, quindi tutti la domenica, che invece però stanno in casa di Rienzo a passeggiare, a Roma, con l'obbligo anche di passeggiata, con l'obbligo anche quello di ritrovo in piazza per socializzare col prossimo. No, la di Rienzo, passeggi nei negozi, dici ma tanto posso venire martedì se devo cambiare questa cosa, e loro ti rispondono no guardi, può venire anche domani, questo sabato, perché tanto domenica siamo aperti. Allora dico ok, e lo dicono, capito, con il magone in gola. Allora quando vedi la signora, ma nessuno li obbliga a fare quel lavoro. nessuno li obbliga a fare quel lavoro. Cioè, ci sono dei lavori che se ti attirerai da te attraverso, ma non è vero, messaggi, non è necessario, ma che ho capito, ma io, se no? Uno sceglie un lavoro, non so, io voglio andare a lavorare in pizzeria, immagino che la domenica io debba lavorare, no? Lo metto in conto. Lo stesso discorso vale se io lavoro dall'ottico, lo stesso discorso invece vale. Vabbè, a parte Natale, ho capito. Ma sono esercizi commerciali, uno mette in conto che può aprire, se no faccio l'impiegato, cerco il lavoro, che ne so, alle poste, oppure cerco lavoro in banca, oppure cerco lavoro da impiegato in un'azienda. Questo può essere giusto, se tu al momento dell'assunzione fai firmare una clausola che accetti di lavorare la domenica, in determinate domeniche dell'anno, eccetera, eccetera, io firmo e accetto, allora devo lavorare. Il problema è che invece la domenica non si lavora, i contratti collettivi non lo prevedono in generale, che le leggi prevedono che sia giorno festivo, eccetera, eccetera. Poi si svegliano alcune imprese e dicono domenica si lavora perché siamo in crisi economica, ma non va bene. Allora prendi i volontari. Ma questi perché sono casi. Milano non lavora la domenica? Cioè, questi sono casi. Io ho decespugliato un campo a Pasqua, per esempio. Ho preso il decespugliatore da un amico. Ma se dovevi lavorare in radio non potevi decespugliare. Ma ho capito. È un lavoro che ci domandiamo come mai non hai preso in considerazione di continuare a fare. Certo. Ricordo che siamo a Radio 24, che è accesa 365 giorni l'anno. Ci sono colleghi, anch'io l'ho fatto per anni quando lavoravo nella redazione. Ho lavorato anche a Natale a volte. È capitato. Cioè, se no. Che è capitato, è un discorso diverso. Ma è capitato, cioè, ma qua su, appunto, non l'hanno imposto, cioè sapendo che lavoro in una radio o news, so che posso lavorare il sabato e la domenica. Cioè, non è che posso arrivare a Radio 24 e dire ma io la stessa cosa. Ma ho capito, ma non è che arriva a Radio 24 e poi dico no, ma io la domenica non lavoro. Abbiamo visto in questi anni quanto sono cambiate lavoro. Però le cose, cioè quante volte ci sono stati posti che prima esercizi erano chiusi la domenica, chiusi nelle festività, e siccome gli altri posti restano aperti, cercano di rimanere aperti anche loro. È stata una progressiva deterioramento del giorno di riposo, c'è cioè un progressivo esatto. cambiamento, come tanti. Ma un esposto su questo, un esposto, Rienzi, un esposto, non lo facciamo su questo, chi denunciamo? Qua è un casino. Ma vediamo un po', potremmo denunciare la Conf esercenti, la Conf commercio, Vabbè, qualcuno lo troviamo da tirar dentro, qualcuno lo troviamo. Allora, signori, in tuo onore, cara Veronica, siccome la nostra redazione è una redazione che lavora, abbiamo trovato, come si dice, sciocchina in mandarino. Sai che ci sono questi programmi? Ci sono questi programmi strani, non ci posso credere, no? Sciocchina cinese? Cioè, cosa vuol dire sciocchina cinese? Però. No, aspettate. Te lo faccio pronunciare da un computer. Noi siamo 4.0 ormai. Aspetta, non sei capito niente. Senti bene qua, fermi tutti, vai. Zhongguosha. Zhongguosha. Devo studiare, però. Te lo mando via WhatsApp. Mandamelo, io faccio tutto il giorno. Zhongguosha. Zhongguosha. Potete tradurre sciocchina è l'appellativo di Milan, come mi chiama lei. Sciocchina in cinese, adesso Milan è diventato mandarino cinese, quindi è diventata sciocchina cinese. E vabbè, questo è. A proposito, Rienzi, il Milan ai cinesi, c'è qualcosa su cui volete indagare? Perché lì è un problema dei tifosi. I tifosi sicuramente non è che sono contenti, anche lì vedi, è l'evoluzione del mondo, no? Ma io sono stato sempre tifoso della squadra della mia città, e che espressione della mia città, espressione dei miei imprenditori, anche se vogliamo, no? Che amo perché sostengono la mia squadra e così via. Cioè, che è una estraneità che si realizza con quella. Con la vendita ai cinesi, con che vuol dire? Non dove l'esternalizzazione, ma io ho capito. Tristezza, ma no? Anche lì. Ma anche la voglia di essere tifosi, no? Che sono tifoso dei cinesi. Ma che c'entra? Uno è tifoso della maglia, dai, su. Ci sono gli sceicchi a Parigi, ci sono i thailandesi. Ma gli orari per far vedere le partite in Cina. Ci stanno conquistando i cinesi. L'unica vera colonizzazione che sta avendo luogo, altro che I cinesi. Vabbè, andiamo al traffico. Poi voglio sapere come, cosa avete mangiato per Pasqua. Perché qui dicono le prime statistiche che il biberon di Berlusconi avrebbe salvato 10.000 agnelli, che secondo me sono stati salvati. Hai mangiato tu l'agnello? Io l'ho mangiato, sì, lo ammetto. Puoi girarmi la domanda se vuoi. No, io l'ho mangiato. Adesso dopo il traffico mi dite voi che avete fatto con l'agnello. Tra poco. Zhongguoxia. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. Ma chi se ne frega, mila mocca con la temperatura, ma chi se ne frega. Bravo Berlusconi, che con una coppia di agnelli si è preso su un branco di pecore. Milan, ma una cosa, ma a proposito degli assenteisti, ma com'è qua il fatto che la festa è domenica e tu cominci a stare a casa già il venerdì? Forse Berlusconi avrebbe dovuto allattare un bambino africano, sarebbe stato più interessante. Qua parliamo di agnelli, ma c'è un'umanità che soffre, sul serio. Adesso perdiamo un po' il tempo con gli agnelli quando ci sono dei bambini che magari sono in più grande difficoltà degli agnelli. Io sono vegetariano nel cuore, ma non in bocca. In bocca no. Ah, Oliviero Toscani, vabbè. Oliviero Toscani, guardalo qua, libero, dalle cene eleganti alle cene vegetariane. Berlusconi in mezzo a 1, 2, 3, 4 cani e 2 agnelli. Vi giuro, c'è la foto su Libero in prima pagina. 4 cani e 2 agnelli. Poi il cane si è sbranato l'agnello. Questo è il sequel della foto. È anche vero che per questa campagna di marketing la sta pagando carissima Berlusconi. No, come no? Aspetta, fammi fare la foto. Devo fare una foto. Renzi, dimmi qualcosa sul tuo pranzo di Natale. Ma sì, di Pasqua. Per il Natale, no? Di Pasqua. No, Pasqua. Io ho mangiato la zuppa di ceci alle terme di Vulcano. Quindi molto vegetariano. Non ho mangiato carne molto e credo che anche qui sia un problema di libera scelta, di tradizioni, perché insomma è vero che ci sono problemi molto più gravi e che i bambini sono nel mondo in una situazione molto più grave degli agnelli. Però questa cosa di Toscana molto più attenzione. Berlusconi dovrebbe fare qualche cosa su questo, soprattutto. Sì, però dai, anche qui, anche Toscani, anche te, Rienzi, ma insomma, ma uno ha fatto una cosa per gli agnelli. Ma ha fatto una cosa per gli agnelli. Retorica, si risponde con retorica. Oh, eccolo lì. E dai, su. E non mi fare accalorare di prima mattina. Con l'abbacchio ancora sullo stomaco. Con l'abbacchio sullo stomaco, attenzione, si è tradita. Hai mangiato l'abbacchio? Sì. Ho mangiato le costolette, la corella. Lo dici con un po' di vergogna, non hai provato la vergogna? No, affatto. Per niente, penso che insomma. Berlusconi non vuole la carne, ma vuole ancora le patate, non te l'avete vista? Vabbè. Questa dopo aver letto la prima di Libero, Rienzi si è subito, come dire... calato questa nella... diciamo che è stata una delle battute che più così è stata popolato in rete, poi non ne parliamo. No, le altre le lasciamo sì, così, esatto. Quello che possiamo dire sulla questione del biberon è che diciamo che Berlusconi è veramente un genio del marketing e quindi ancora una volta ha capito che l'aspetto degli animali, la cura per gli animali, senza addirittura arrivare all'essere vegetariani, è una cosa che attecchisce su tutti perché non è divisiva, quindi mentre appunto tante altre cause prendersele a cuore, utilizzarle, non sceglierle come testimonial di una campagna elettorale è più complicato. Esatto. No, ma poi guarda che gli animalisti, quando abbiamo preso posizione contro i cani più feroci, diciamo così, quindi contro i provvedimenti fatti che liberalizzavano anche il guinzaglio, la museruola, siamo stati presi a male parole da migliaia di cittadini che sono andati immagino. Sì. Una cosa terribile, cioè, quelli che hanno, come tanti, come anche io, ma non penserei mai di aggredire chi difende certi diritti anche del cittadino che va nel parco e non vuole vedere il cane, anche un cane grande senza guinzaglio che scorazza insieme con i bambini, viene aggredito perché c'è una c'è un attaccamento, si sente attaccati personalmente da parte dei padroni dei cani, per esempio, parlo dei cani perché questa è la nostra esperienza, veramente sconcertante. Sono aggressivi, sono più aggressivi loro dei cani. Allora, ma leggilo qua, proprio, è proprio cambiato, redento, leggo dalla prima di Libero, a letto e a tavola. Una certa letteratura l'ha sempre descritto come il Marchese de Sade, invece addio cene eleganti e ora si siede a tavola per un centrifugato di verdure e un hamburger di tofu. A letto? Niente carne, nemmeno a letto. Non a letto e a tavola, cioè è cambiato. Ma perché anche a letto ora preferisce la verdura? La carne. Niente carne. Non lo so, certo. Praticamente sì, cioè basta cene eleganti e poi soprattutto... eccolo qua, niente carne, ma solo verdure, hamburger di tofu. Ragazzi, non farti più invitare ad Arcore, Veronica, perché è un disastro. Sono cavoli. Cioè, un hamburger di tofu, però ti alzi e te ne vai. Ti alzi, giri i tacchi e te ne vai. Ascolta i tempi, perché anche lì dice, tra tutte queste ragazze, no, che venivano qui, sai quante saranno diventate adesso vegane e vegetariane? Eh? Quindi se io modifico il menù, mi tengo, capito, sono sul pezzo. Ah, vuole come possono venire tutte, pensa quante vegetariane non sarebbero potute andare, capito? Vabbè, invece sì. Lui... Signori, mentre noi qua scherziamo, ridiamo e sorridiamo... C'è una questione che tu lo sai, Renzi, che siamo pronti all'aumento dell'IVA. Ormai l'ha detto Padoan in un'intervista domenica a Messaggero. Cioè l'aumento dell'IVA ha fatto capire lo so. Aumentando l'IVA aumentano i prezzi. C'è una diminuzione esattamente pari di consumi, per cui l'introito per lo Stato, è stato dimostrato negli ultimi aumenti dell'IVA, è zero, se non addirittura negativo. Cioè l'aumento dell'IVA fa diminuire i consumi, quindi rallenta la crescita. È contro quindi una ripresa dell'economia, ma soprattutto l'introito dovuto all'aumento dell'IVA non compensa la perdita dovuta alla diminuzione degli acquisti. Certo. No, ma è una lettura assolutamente corretta. Siccome si aumenta sempre poi alla fine l'IVA, ogni volta che si fa una manovra correttiva, tanto facciamo anche la rima. Allora fare campagne elettorali intere sul fatto che non si aumenterà l'IVA, Renzi ci insegna bene questo, è completamente inutile, no? No, ma infatti lui vede come il fumo degli occhi questa cosa di Padoan, che però l'ha messo lui. Ma l'aumento quale fumo negli occhi? Padoan si trova semplicemente a pagare i conti di quello che è stato fatto e deciso durante infatti, il governo Renzi. Stavo dicendo, infatti ha messo lui l'aumento lui dell'IVA. Però, certo. Però era stato messo l'aumento dell'IVA, le cosiddette clausole di salvaguardia per l'anno prossimo, e quindi ora o si trovano i soldi altrove oppure scatta l'aumento dell'IVA. Però Renzi si può permettere adesso il gioco delle parti, di fare il poliziotto buono che non voleva, che lui che è contrario, che le tasse non devono aumentare, che non bisogna dar retta ai burocrati europei, ma tanto si sapeva. Ma perché non vogliono eliminare 500 enti inutili, non vogliono diminuire l'acquisto degli F-35, ma voglia trovare soldi nel nostro paese. Mettete Renzi a fare, ma mettetelo lì a tagliare. Mi candido. L'ultima volta è andata benissimo al sindaco di Roma, benissimo. Quanti? Ma sei sciocchina proprio. 3.000 a Roma, eh? Vabbè, ma io ho capito. Ma perché il mio vale di più, sai, no? Ha preso perché hai votato Renzi? Certo. Ma veramente? Allora, una cena assicurata. Grazie, vedi, mi raccomando, io non mangio agnello. Cena ad Arcore con hamburger di tofu, signori, ma che è successo? Salvate Berlusconi nell'ultima parte della vita, ma che gli è successo? L'hamburger di tofu, vi prego, andate ad Arcore, fate qualcosa. Vai ad Arcore. Chiaramente è una rete, vado io ad Arcore. Vai ad Arcore, fai qualcosa, Veronica, salvalo. Ormai tutti fuori tempo, un tempo ci si andava per altre ragioni, adesso entro io per salvarlo dal tofu. Dai. Insieme a Fastacina ad Arcore, a sto punto. Ah, portiamo anche Anacleto. via, esatto, portiamo anche tutti, ragazzi, e facciamo Milan, e finiamo così, e finiamo e portiamo Anacleto, facciamo la festa di Anacleto, vengo con Veronica Gentili e con Carlo Rienzi alla festa se inizi a mandarmi gli audio via WhatsApp e quindi di buona qualità, invece della segreteria telefonica che c'hai solo tu ormai nel 1948. Beh, va bene. Che cosa poetica il nostro Anacleto, vedi? No, sì, poetica, però anche questa ha rotto i coglioni con l'audio un po' di qualità. Come moderna, di qualità. Come proprio, insomma, eh? Oggi ho perso il conto, credo 6 o 7 volte in italiano e 2 o 3 in mandarino, me l'hai detto. Non lo so. Devo salutarvi, Veronica Gentili e Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Alla prossima. Oh, Milan Maria, era a mangiare nella mia trattoria preferita e chi c'era alla televisione? Veronica Gentili. Lo sai, porcaccia miseria, hanno dovuto chiamare il dottore, mi è rimasto tutto sullo stomaco. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Signori, sono le 7:19 minuti e siamo qui in diretta su Radio 24. Siamo tornati, Pasqua, Pasquetta, sono andati via. E allora, siamo pronti a leggere i giornali. Questo è lo spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino. C'è Peter Biscapè in regia, c'è Lorenzo Lenspoli in redazione. Hai smesso di sanguinare, Lorenzo? Sì. Sei vivo? Quanti litri di sangue abbiamo perso oggi? Va bene, andiamo avanti così, andiamo a leggere i giornali. Forza! Tutti in piedi anche sul divano. Arriva il cross! Tocca a Marco, poi Zapata, la palla è entrata! Ma tienila lì, Peter, per dopo. Tienila lì, che dopo arriva un nostro amico. Tienila lì. Dai, siamo a martedì 18 aprile. Intanto i titoli. L'apertura del Sole 24 Ore dedicata alla manovrina, oltre 2 miliardi da imprese e professionisti. Questo è il titolo di prima pagina. I numeri della stretta fiscale del decreto correttivo li trovate sul Sole. Poi più o meno tutti i quotidiani aprono sulla vittoria di Erdogan in Turchia sul referendum per i cambiamenti della Costituzione, che di fatto sono passati anche se di poco e che accentrano tutti i poteri nelle mani del capo dello Stato, in questo caso proprio lui. Turchia, i sospetti sul voto, è il titolo di apertura del Corriere della Sera, mentre Repubblica, Erdogan, sconfitti i crociati sul voto, l'ombra dei brogli. Per la Stampa, Erdogan vince di un soffio, spacca la Turchia, l'OSCE accusa irregolarità. Per il Fatto Quotidiano, brogli, Erdogan sa come si vince un referendum. Il Giorno titola Il Sultano contro tutti, e c'è una foto ovviamente di Erdogan. Così il Messaggero, vince Erdogan, scontro sul voto. Per l'Unità, Europa, c'è un dittatore alle porte. Il Manifesto, mezzo sovrano, e c'è la foto di Erdogan. Anche su Avvenire, questa è l'apertura, Erdogan si incorona, è il titolo di prima pagina. Le aperture di diverso taglio. La Verità, infornata di nomine del ministro indagato. Blitz della Settimana Santa per Lotti, titolare dello Sport, che si prepara ad assumere 18 consulenti economici perché è anche segretario del CIPE, quindi decide lui. Libero invece, l'ultima castroneria del grillino Di Maio, lavorare fa male, il vicepresidente della Camera sull'argomento dello sciopero al Serra Valle Outlet. Mentre l'apertura del giornale, per i migranti 4 miliardi, agli italiani 3 di tasse. Costano più i salvataggi della manovra. Tra l'altro sulla manovra avremo la questione anche dell'IVA, che è tornata molto calda per un'intervista al ministro Padoan proprio nel giorno di Pasqua, ma il tema dei migranti, che è l'apertura del giornale, è anche molto diffuso sugli altri giornali, perché sono stati giorni di Pasqua, eravamo certamente distratti, molti italiani distratti da altre cose. Nel frattempo sono arrivati 8.500 persone nuove, 8.500 migranti salvati, per la verità fa sapere la Stampa, chissà quanti sono quelli scomparsi tra le onde. 2.000 venerdì, 4.500 sabato, 2.000 domenica salvati. Questi sono i dati del Ministero dell'Interno. sono state recuperate anche 13 salme dal naufragio di due gommoni al largo della Libia. Sono quindi, scrive La Stampa per esempio a pagina 4, da aggiornare le statistiche. Scrive Francesco Grignetti, gli ultimi dati del Viminale da data del 12 aprile dicono che sono 26.989 migranti sbarcati quest'anno, un incremento del 23,8% rispetto al 2016. Complice il mare particolarmente piatto e dunque per tre giorni gli scafisti libici hanno fatto mettere in acqua ogni tipo di natante. Tra l'altro, saltando sul Corriere della Sera, c'è una domanda proprio su questo, a dire: chi fa partire i migranti? E mi verrebbe da dire, ma come? Ma non abbiamo firmato un accordo di recente con la Libia? Un accordo per il quale li riempiamo come al solito di denari, di mezzi, di strumentazioni, di tecnologia per controllare? Controllare cosa? Visto che continuano a partire. Controllare cosa? Eppure al prossimo accordo in cui prometteremo nuove tecnologie, fondi, denari, soldi. Sapete che c'è anche la polemica sui salvataggi in mare. Oggi Pietro Del Re di Repubblica fa un reportage a pagina 16 e 17 sulla nave dei volontari, la nave Aquarius. Ma quale business? Senza di noi ci sono solo più morti. È la nave con cui Medici Senza Frontiere cerca di arginare il numero di vittime nel Mar Mediterraneo. Racconta Pietro Del Re dell'ultimo salvataggio, per esempio. Sono partiti e un'ora dopo bagnati, infrettoliti, ancora impauriti dopo la notte trascorsa al largo delle coste libiche, i migranti erano tutti sul ponte di questa solida nave umanitaria a 77 metri per una stazza di 1812 tonnellate. Con questa nave, dal febbraio dello scorso anno, le squadre di soccorso di Medici Senza Frontiere e SOS Mediterranee cercano di arginare il numero dei profughi morti in mare e rispondono anche alle accuse, di incentivare le partenze. C'è chi ci addossa colpe insensate, come di essere collusi con gli scafisti libici e di essere un fattore di attrazione che spinge i barconi a prendere il mare, ma è sbagliato dire che le ONG provochino una crescita dei flussi, perché nel 2014, dopo che le operazioni di Mare Nostrum furono bloccate, il numero di gommoni continuò ad aumentare. Eppure a criminalizzare l'operato degli umanitari ha cominciato Frontex, l'Agenzia Europea delle Polizie di Frontiera, e la coordinatrice di MSF sull'Aquario, l'olandese Marcella Kraai, critica: sono solo calunnie, ci muoviamo in un quadro internazionale in strettissimo collegamento con il Mediterranean Rescue Coordination Center di Roma, che gestisce tutte le nostre operazioni, dall'individuazione del gommone alla rotta da seguire per raggiungere il porto di accoglienza. Senza contare che i trafficanti di uomini per noi sono le persone più detestabili al mondo. È la polemica, leggete comunque questa bel reportage a bordo di questo Aquarius 16-17 di Repubblica. In tutto ovviamente aumentano gli sbarchi, aumentano i costi. Questo è segnalato da tutti i giornali, leggo dal Giornale a pagina 3, boom di spese per i migranti. Ci costano più della manovra, nel DEF la cifra per gli sbarchi aumenta a 4,6 miliardi, Ricordate che ci sono 3,4 miliardi della finanziaria, la manovrina da sistemare, perché bisogna riequilibrare i conti come ci chiede l'Europa. E va bene, signori, se siete alla guida, attenzione, attenzione, vi do questa notizia. Il governo, e quindi passiamo alle notizie di cronaca, lasciamo il tema migrazione, vedremo poi invece la questione della manovra e l'IVA più avanti, ma voglio andare a questa notizia che sicuramente interessa tutti coloro che sono alla guida in questo momento. Il governo pensa a una stretta molto dura per chi usa il cellulare mentre è al volante. Leggo dal Secolo XIX, Marco Menduni, a pagina 7. Telefonino al volante, via la patente. Questo è l'annuncio, l'annuncio, poi chissà se ci sarà questa stretta. patente sospesa da 1 a 3 mesi a chi usa il telefonino anche alla prima violazione, cioè appena venite beccati la prima volta. Guidi utilizzando il cellulare, patente sospesa, per un periodo che va da 1 mese a 3, già alla prima violazione. È il vice ministro dei trasporti Nencini che annuncia questa linea dura con un provvedimento che arriverà in tempi strettissimi. È ripartito questo iter al Senato e potremmo intervenire anche con un decreto già a maggio per anticipare quelle che sono le due grandi emergenze da affrontare il più rapidamente possibile, così dice Nencini. Una di queste è proprio l'utilizzo dei telefoni senza Bluetooth e quindi gente che manda SMS, chatta, consulta internet, autoscatti al volante per mandarli agli amici. Ebbene, tutto questo il governo pensa appunto a una stretta con ritiro della patente da 1 a 3 mesi. Va bene, non è questo da mani sul volante, anche se ci stava anche abbastanza, ma è una decisione giusta e quindi non è la notizia che mi fa pensare della giornata, che invece è questa. Siamo sul Corrierone della Sera. Sul Corriere della Sera Sergio Rizzo ci fa sapere che l'Italia è in coda nel programma 2014-2020 per l'utilizzo dei fondi europei. Pensate che abbiamo a disposizione 73,6 miliardi come Italia, abbiamo speso appena 880 milioni, l'1%, fondi europei, speso l'1%, peggio di noi fanno, ma non è una bella consolazione, Austria, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Croazia e Romania. Ma è una ben magra consolazione, fa sapere Sergio Rizzo. Non siamo soli, ci sono 6 paesi dell'Unione Europea che hanno fatto finora peggio di noi. Ma non può valere il detto mal comune mezzo gaudio. Ci sono regioni che spendono di più, regioni che spendono di meno, ma il risultato in generale, regioni che spendono zero, come Abruzzo, Campania, Lazio, Sicilia, Umbria, Puglia, la provincia di Bolzano, o chi, come il Veneto, spende lo 0,1% di quello che ha a disposizione, altre molto più, in questo più intelligenti, spendono il 9,7% come la Valle d'Aosta, ma il complessivo risultato è che per i fondi europei l'Italia ha speso solo l'1%. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro, per il derby di Paolo Sarpi con Mauro Meazza, impara a dire religiosamente in cinese. Zongjiao. Sì? Sì? Bah, vabbè. Allora, dobbiamo parlare della Turchia, perché la Turchia è il tema principale su cui aprono molti quotidiani. Vale a dire il referendum vinto, anche se di stretta misura, da Erdogan domenica, un referendum che accentra, cambia la Costituzione, accentra i poteri molto nelle mani proprio del presidente. In uno schema chiaro, Repubblica pagina 2 racconta cosa succede. Il presidente ora diventa anche il capo dell'esecutivo oltre che dello Stato, anche se non imparziale perché rimane legato al suo partito di riferimento, di cui tra l'altro nomina i parlamentari. Scompare la figura del premier sostituito da 2 o più vicepresidenti nominati direttamente dal presidente con la nuova Costituzione. Presidente che sceglie e revoca i ministri, quindi presidente e capo del governo. Nomina la maggioranza dei giudici della Corte Suprema, approva il bilancio dello Stato e soprattutto può scegliere in ogni momento il Parlamento e indire nuove elezioni. Voi capite che tutti i poteri sono nelle mani del presidente. Vittoria di misura, 51,41% contro il 48,59% di no, e accuse di brogli, questo da tutti gli osservatori internazionali. Leggo per esempio dall'articolo di pagina 5 del Sole 24 Ore, il Reis esulta, ma ieri sera in Turchia ricominciavano le proteste contro il contestato esito del referendum costituzionale di domenica sul presidenzialismo. Cortei erano previsti a Istanbul, nel quartiere europeo in cui il no ha prevalso nettamente, come Beşiktaş, e sulla sponda asiatica a Üsküdar. Alcune proteste erano già scoppiate domenica con i manifestanti che avevano rumoreggiato dalle finestre in strada percuotendo pentole e stoviglie. Il presidente, con i superpoteri, punta ora a solleticare l'orgoglio identitario dei turchi, a contrapporre la Turchia musulmana all'Occidente. E infatti una delle prime frasi è stata: abbiamo sconfitto i crociati. Questo da parte di Erdogan. In tutto ciò, ovviamente, la situazione si fa pericolosa, perché accuse di brogli provengono un po' da tutte le parti per dopo questo referendum. Alfano, ministro degli esteri italiano, viene intervistato dal Corriere della Sera a pagina 3 e dice che a questo punto l'ingresso in Europa da parte di Erdogan non è sul tavolo da parte della Turchia, quindi blocca un po' questa situazione. Alfano, in tutto le accuse di brogli arrivano un po' da più parti. Leggo per esempio Lorenzo Bianchi a pagina 3 del Giorno: io, osservatore internazionale boicottato da tutti, arrivo alla scuola elementare Milli Ejtim Vakf e il semaforo verde per accedere ai seggi del referendum costituzionale si è aperto con qualche difficoltà. I poliziotti fotografano il mio passaporto e quello dei due avvocati dell'Associazione Giuristi Democratici. Telefonano, poi ci lasciano visitare un paio di sezioni elettorali e, sospettosi e imbarazzati, non sapevano che pesci pigliare di fronte a un evento imprevisto, un'apparizione non codificata. Per tutta la visita ci segue passo passo un accigliato rappresentante del partito di Erdogan. A tratti sembrava che desse disposizione agli agenti. Stessa scena alla seconda scuola di Batman, città curda di 400.000 abitanti a est di Diyarbakir. Telefonate, controlli, foto dei documenti d'identità, un folto cordone di agenti schierato davanti e dietro l'edificio scolastico. Il primo rifiuto di lasciarci entrare è scattato alla terza tappa, un istituto tecnico professionale Anadolu. Un agente guarda i nostri passaporti, controlla la lista dei nomi sul telefonino e dice cortese ma fermo: non siete nell'elenco del Ministero dell'Interno, non potete entrare. Ecco, gli osservatori dell'OSCE, attraverso per esempio questa testimonianza, ma anche altre, denunciano una non completa chiarezza su quello che è successo, e ovviamente ora il timore è che la situazione in Turchia possa anche degenerare con qualche tipo di manifestazione, di scontri. In tutto questo, mentre ovviamente continua dal punto di vista della situazione estera la tensione tra Stati Uniti e Nord Corea. C'è questo su tutti i giornali, la dichiarazione del vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence, che in visita con la figlia al confine tra le due Coree dice che la pazienza ha un limite, questo riferito a Pyongyang. Anche se devo dire che dal punto di vista degli esteri forse l'articolo più interessante lo si trova sulla Stampa, è un retroscena di Paolo Mastrolilli a pagina 7. Riguarda direttamente l'Italia e l'incontro che ci sarà il 20 aprile tra Trump e Gentiloni. I temi in agenda giovedì sono la Libia, la difesa, l'Iraq, e uno dei punti è quello che dà il titolo della Stampa: l'Iraq e la tentazione di Trump, Italia in prima linea contro l'ISIS. Attenzione, perché secondo la Stampa la richiesta che potrebbe fare Trump, più una richiesta e più un timore, è che ci domandi un impegno più diretto in Iraq, dove le nostre truppe danno assistenza ma non sparano. L'offensiva a Mosul va piano, gli iracheni hanno bisogno di aiuto operativo, l'Italia ha uomini a Erbil e sulla diga dove sono in corso lavori di riparazione, e allora il timore è che Trump possa chiedere all'Italia di essere più attivi sul terreno per sconfiggere l'ISIS definitivamente da Mosul. succederà e soprattutto se dovesse succedere come risponderà Gentiloni. Sapete la questione, l'Italia ripudia la guerra, bla bla bla bla bla bla, cioè non bla bla perché siano parole poco importanti, sono scritte nella Costituzione, ma sapete che ogni volta c'è questa ipocrisia per cui noi siamo quelli che si va, se si va in guerra si dice che non si va in guerra, insomma facciamo sempre un po' gli ambigui. Però vedremo che succederà se ci sarà questa richiesta diretta, vedremo la risposta dell'Italia. A proposito d'Italia, veniamo alle questioni italiane. C'è un punto essenziale dopo l'intervista che il ministro Padoan ha rilasciato al Messaggero a Pasqua e il punto è: aumenterà o non aumenterà l'IVA nel 2018? Padoan, secondo l'analisi per esempio del Fatto, dopo l'intervista al Messaggero, cosa ha detto Padoan? Ha detto questo. Allora, lo scambio tra IVA e cuneo fiscale è una forma di svalutazione interna che beneficia le imprese esportatrici, che sono anche le più competitive, le quali non possono più avvantaggiarsi del tasso di cambio. Si tratta di una ricetta classica. E siccome io sono un tecnico, ricordo che nelle scelte politiche non si possono ignorare gli aspetti tecnici e viceversa. Diciamo che è un'opzione sostenuta da buone ragioni. E come scrive il Fatto, tanti saluti a Renzi. Cioè Padoan fa capire che farà aumentare l'IVA, perché da un punto di vista tecnico è vero, magari deprimerà i consumi. Sicuramente deprimerà i consumi, visto che aumentano i prezzi, ma avvantaggia le imprese esportatrici ed è una soluzione tecnica, quella che spesso ci chiede anche l'Europa, e dunque anche il Messaggero dall'aumento dell'IVA fino a 45 miliardi per tagliare il cuneo fiscale, quindi aumento dell'IVA per abbassare il cuneo fiscale, a differenza tra quanto si incassa e quanto si paga in tasse nello stipendio. E dunque niente, questo è sale l'IVA, riparte lo scontro, questo è il titolo di Avvenire a pagina 9. Sapete che Renzi è quello che dice no, l'IVA non si deve toccare, l'IVA non deve aumentare, ma su questo tra l'altro le clausole di salvaguardia le ha poste lui quando era al governo, cioè mettere la questione dell'IVA come copertura del 2018, e quindi se ora non si trovano altri sistemi per recuperare quei soldi scatta l'aumento dell'IVA. E secondo quello che si legge almeno oggi nel borsino così di rapporti tra Renzi e Padoan, Padoan è pronto a fare proprio questo, ciò che Renzi vede come il fumo negli occhi. Anche Libero titola così: Padoan alzo l'IVA, pensionati nei guai. E vabbè, questa è, come dire, la zampata di Padoan, la zapata, tutti i piedi anche sul divano, arriva il grosso, zapata, tocca a la zampata, è entrata. Ah, come al 97esimo? Mamma mia quanto durano queste partite ultimamente. Vabbè, Mauro Meazza, ciao, come stai? Hai passato una buona Pasqua? Ottima Pasqua, buongiorno caro. Fammi fare la svelta che devo andare a vedere se è finito il derby, che fosse ancora in corso. Non vorrei che con questa cosa del tempo effettivo, peraltro che vi fu fatale a Torino, sì, mi ricordo. Esatto, sì, con un rigore inventato, peraltro. Almeno questo gol è stato un gol. Rigore quando arbitro fischia, certo. Fine della partita, quando arbitro fischia. Se si ricorda di fischiare, più che altro, perché va avanti. Ma ha fischiato, è finita, te la volevo dire. È finita? È finita, 2-2. Posso leggere il Sole 24 Ore con tranquillità, perché ero lì che cercavo, ieri ho visto male anche il Gran Premio per l'Altrieri, perché appunto giravi sul derby ogni tanto e continuavo a stare sul derby perché pensavo stessero ancora giocando. Vabbè. Allora, caro Alessandro, vedo che ti interessi alle questioni dell'IVA, ma me ne compiaccio. Allora, bene. La pagina 3 del Sole 24 Ore di oggi, da leggere religiosamente, anche se non ha enormi attributi, anzi son Joe, mi pare che si dica, così diceva il messaggio del tuo ascoltatore. Ebbene, c'è questa stretta immediata della manovrina con lo split payment, la scissione dei pagamenti, una cosa che è fastidiosetta per i professionisti, e soprattutto la stretta sulle compensazioni le compensazioni, quindi anche qui devi leggere però le pagine di norme e tributi. Mi spiace, come tutti i giorni, anche oggi, anche se hai pareggiato al 102esimo, al 103esimo, però devi leggere le norme e tributi. E poi naturalmente ti consiglio la lettura di Gianni Trovati e Claudio Tucci proprio su questo scambio, questo dissidio che si propone tra l'IVA, le clausole di salvaguardia e i tagli al cuneo, all'IRPEF, ma la situazione, la confusione è grande sotto il cielo, diceva qualcuno. Vedremo cosa si configurerà, però ti segnalo che nel DEF si dice che le clausole IVA verranno congelate, quindi vediamo, questo sembra essere l'impegno almeno scritto nel DEF. Non perderti naturalmente l'effetto matrioshka. No. L'effetto matrioshka dell'attuazione, perché come spesso fa il Sole 24 Ore, verifichiamo quant'è il livello di attuazione delle norme, che come sai si fa una legge, poi va attuata, ma poi anche dopo il primo provvedimento attuativo ne servono altri. Allora, ad esempio, tra fisco, buona scuola, riforma della pubblica amministrazione, ballano qualcosa come 200 provvedimenti da completare, il tutto naturalmente sul Sole 24 Ore di oggi. Ti segnalo da meditazione, sì. Il derby è finito e quindi ti puoi mettere comodo a vedere. Ecco, ti segnalo da meditazione l'inchiesta di Attilio Geroni sulla provincia francese, perché domenica si vota in Francia e come sai è un voto molto importante, ecco, anche per verificare la tenuta o come andrà il Front National. E così Geroni sta visitando, è andato a visitare, sta raccontando la provincia francese. C'è una cosa molto interessante su YouTube, che un tribunale ha condannato a togliere le telenovelas di cui non aveva diritto a mettere in rete, e poi naturalmente oggi è martedì, anche se ancora si sta giocando il derby, anzi il derby mi verrebbe da dire, e allora essendo martedì, dillo bene tu, c'è il condominio. Oh, bravissimo, ti segnalo tra le varie notizie del condominio l'affittacamere, caro mio. L'affittacamere non è un'attività che contrasti con l'uso abitativo, quindi può essere impedita dal condominio, ma se dimostra che questa attività disturba, ad esempio come un prolungamento eccessivo di una partita disturba, potrebbe disturbare. Caro Alessandro, cari ascoltatori, traffico! Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta Alessandro Milan, il vai ad la brasa tamadoz, lavorati che mi non pos, dell'informazione. Va bene, sono d'accordo con te, caro ascoltatore. Intanto alle 7:48 minuti continuiamo la lettura dei giornali, a cominciare dalla questione del Serravalle Outlet, no? L'outlet di Serravalle scrive, l'outlet più grande d'Europa, sapete che c'era la questione dello sciopero, lo sciopero a Pasqua, ne abbiamo parlato anche qui, non si lavora a Pasqua. Qual è stato il risultato? Il risultato che è stato un mezzo fallimento dal punto di vista almeno delle saracinesche abbassate, perché 4 saracinesche abbassate su 250, leggo dal titolo della Stampa a pagina 19, fallito lo sciopero all'outlet di Serravalle. Racconta Antonella Mariotti, Pasqua al designer outlet di Serravalle, in coda davanti al negozio di Prada, giapponese e coreani, gli altri spagnoli, francesi, italiani hanno scelto marchi più a buon mercato, ma lo sciopero, solo 4 vetrine chiuse. Sabato l'affluenza è stata di 15.000 persone durante la manifestazione, i blocchi di accesso alla città della moda, 2.000 in più domenica. E ci sono le dichiarazioni di alcuni turisti, alcuni che vogliono acquistare, che chiedono perché sono chiusi. La situazione è di uno sciopero che sembra abbastanza fallito. Però in questo si è distinto ieri il vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che con un post su Facebook ha rilanciato questo tema. Movimento 5 Stelle, le liberalizzazioni sfasciano le famiglie. Questo è il titolo del Corriere della Sera a pagina 8 e anche l'apertura del quotidiano Libero, che dedica a Di Maio in maniera non troppo tenera l'apertura, il titolo di prima pagina del quotidiano Libero, lo abbiamo visto prima, è abbastanza duro nei confronti di Di Maio. Di Maio, lavorare fa male. Di Maio contro il lavoro domenicale. Le scelte sugli orari di Monti e dei Dem ci hanno resi più poveri. Lo sciopero di Pasqua all'outlet di Serravalle però non riesce. E insomma la polemica è servita per un altro giorno. C'è anche un'intervista di Luciano Cerasa sul Fatto Quotidiano a Maurizio Landini, leader della FIOM, che dice: se bisogna lavorare anche a Pasqua, riduciamo gli orari. Vabbè, dai signori, Pasqua è passata. E a lei, andiamo avanti. Sempre sull'economia, voglio segnalarvi la prima pagina del Foglio. C'è un'intervista al ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda. Un'alleanza culturale per battere Grillo. Dice Calenda, che intanto si deve difendere dalle accuse di essere un anti-renziano, esprimere opinioni e non essere sempre d'accordo su tutto non è indizio di tradimento né la violazione di un principio di lealtà. Dice di se stesso che non pensa a un futuro politico perché conosco i miei limiti e non fa per me. Penso inoltre che la stagione dei governi tecnici sia finita. Detto questo, Calenda dice: l'Italia è molto esposta e occorre dirlo con chiarezza. Quello che ci serve è un riformismo forte, fondato sul realismo piuttosto che sulle suggestioni idealistiche alla terza via o sugli slogan da anni 90. Con l'ottimismo non ci fai niente. Un quadro internazionale più duro e fenomeni epocali come l'innovazione tecnologica e la globalizzazione richiedono risposte lunghe e anche complesse, fuori dal Truman Show, dalla spettacolarizzazione ombelicale in cui sembra imprigionato il dibattito politico italiano. Dunque dobbiamo aggredire la realtà prima che la realtà aggredisca noi. In Italia è fondamentale raccontare ai cittadini la complessità e i rischi del crocevia della storia in cui ci troviamo. Dobbiamo cancellare l'idea che esistano pasti gratis, che si possa assicurare il benessere attraverso redditi inventati piuttosto che avere energia a basso costo senza fare le necessarie infrastrutture. E poi Calenda, in questa lunga chiacchierata col Foglio, propone appunto una alleanza culturale per battere Grillo. Renzi, batta un colpo, faccia il riformista, altrimenti vince la banalizzazione populista. Così Calenda sul Foglio. Va bene, dai, siamo in rapida conclusione. Vi sottolineo anche sulla Verità, pagina 3, l'apertura. Giacomo Amadori racconta che il ministro dello sport Luca Lotti, che è indagato, è anche segretario del CIPE e sta pensando a una raffica di nomine, così racconta la Verità. 18 consulenti economici per un costo totale di 1.230 milioni. No. Mi sembra esagerato, e infatti ho sbagliato, 1.230.000 euro di consulenti, di incarichi. Questo pagina 3 della Verità, la raffica di nomine del ministro indagato. E invece la cronaca, vabbè, c'è questo terribile delitto dall'America dove una persona, dopo aver litigato con la fidanzata, ha sparato al primo che passa, al primo che passava, riprendendo tutto e mettendo tutto su Facebook. Ovviamente c'è anche tutta la questione dei social incriminati per il non controllo o il controllo tardivo eventualmente di questi tipi di azioni tragiche, tutto immortalato su Facebook. C'è la farsa di Igor Braccato, l'ultima, c'è un non so che di tragicomico in questa vicenda di Igor Vaclavich Braccato, insomma è 20 giorni che sembra Braccato, dovremmo non dire Braccato. Comunque l'ultima è questa sul Giorno: mangia animali domestici. A proposito di animali domestici, siamo sulla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, una pagina di Libero con tanto di foto, Silvio Berlusconi tra cani e pecore, non fate facili battute, c'è proprio la foto, tra cani e pecore, qui Berlusconi in prima di Libero fotografato con un cane, due cani, tre cani, quattro cani, due agnellini o piccole pecore, pecore giovani. Basta cene eleganti, Silvio si dà quelle vegetariane. Ma chi se ne frega!